Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Avevo ormai tecnica e vento, e quel giorno l'acqua premiò tutti i miei sforzi. Capì che lasciarsi veramente andare non era più arrendersi al lago, era interpretarne la forza. E fu così che finalmente planai. Mi chiamo Guido, vivo a Milano e il mio lavoro è focalizzato sulla ricerca e sviluppo dell'imballaggio farmaceutico. Non è mai successo prima, o meglio, se è successo facciamo che ce ne siamo dimenticati, ma dal momento che molti ci chiedono vorrei scrivermi una storia, mi piacerebbe partecipare al programma, ma non so di cosa parlare, non ho ancora trovato l'argomento giusto. Ecco, per la prima volta facciamo un appello, facciamo una richiesta. Voi siete qui, chiocciola radio24.it è l'indirizzo a cui mandare il vostro racconto. Visto che stiamo cominciando a lavorare alle puntate che andranno in onda, perché sì, siamo sempre in onda, anche durante le feste natalizie, quello che vi chiediamo è se avete una storia legata alla vostra vita, un episodio che è ambientato, che è accaduto durante il periodo natalizio, ma che non ha nulla a che fare con il Natale, con lo spirito natalizio, con la magia del Natale, col farsi i regali, col volersi bene. Ecco, voi siete qui, chiocciola, radio24.it. Basta una pagina, un episodio semplice che, ripeto, vi è accaduto durante quel periodo lì, durante alla vigilia di Natale magari, oppure il giorno stesso, o il giorno prima di Capodanno, che so io, vi è nato un figlio, ad esempio, il giorno di Natale, oppure avete vinto la lotteria, avete vinto un grattevinci, 5.000 euro al grattevinci il giorno di Santo Stefano. Lo scrivete in un episodio e poi lo inviate a voi siete qui, chiocciola, radio24.it. Noi lo prendiamo, lo mettiamo insieme, come sempre facciamo, e a Natale siete in onda. 349-238-6666, buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:10, il programma è Voi siete qui, raccontiamo ogni giorno la storia di una persona diversa che ci è stata inviata, anche in questo caso, anche se non è Natale, a Voi siete qui, chiocciola radio24.it. Tempo fa ci è arrivata la storia di Guido, che è una storia che parla di senso di appartenenza. Parla di senso di appartenenza a quella che noi abbiamo, ma non noi, non io e Tiziano Bonini, dei sociologi hanno definito delle tribù. Le tribù sono dei gruppi che hanno dei riti molto particolari, hanno degli aspetti di vita che sono particolari e differiscono chiaramente da una tribù all'altra. Quella a cui appartiene Guido è la tribù dei surfisti. O meglio, sarebbe dire windsurfisti, perché è gente che non c'ha solo una tavola, ma c'ha una vela sopra la tavola. E adesso capiremo esattamente che tipo di tribù è, quali sono appunto i loro rituali e in che modo vivono. Ce lo racconterà direttamente Guido. Se però vi capita di far parte di una tribù, se ci avete fatto parte, 349-238-6666, oppure, come sempre, profilo Facebook, sono le 4:11 del pomeriggio, quindi avete sicuramente il computer acceso. Voi siete qui, Radio 24 è il profilo del programma. Andrea scrive: faccio parte di una tribù che si chiama i Daike Nemo, una band di brutti e sporchi enduristi. Daike Nemo, nel dialetto immagino di Andrea, che probabilmente è del nord-est, si sta per dai che andiamo, quindi motocicletta, nemmeno motocicletta, enduristi, cioè gente che fa in fuoristrada, non fa cross, fa enduro. Poi vabbè, Roberta, la tribù dei freelance, vabbè, ma quello ormai non è più una tribù, è un grande gruppo d'appartenenza. Andrea: appartengo alla tribù dei Billie Jean, dove Jean è scritto come Jean, G-I-N. E il mercoledì la tribù del basket, giusto per scaricare un po' di stress. E poi ancora Marco: io appartengo alla tribù dei capoeristi. E siamo anche facili da riconoscere, in qualsiasi posto, che sia una piazza o un ristorante, dopo 10 minuti massimo scatta la roda. Sarà la ruota, si chiama roda, quello che fanno, che girano su se stessi. La capoeira, tra l'altro, ne avevamo già parlato, del fatto che è una danza, ma era una danza che mascherava una battaglia, no? Una forma di combattimento. 349-238-6666, avete capito, qualsiasi sia la tribù a cui appartenete, qualcosa che in fondo è, diciamo, è il vostro lato B, cioè non è il lavoro che fate, non è la parte principale o che occupa maggior tempo della vostra giornata, che però vi rappresenta moltissimo. Quella più o meno è una tribù. Se ne fate parte, 349-238-6666. Indiscutibilmente, Guido è un windsurfista e fa parte di quella tribù lì. Una curva, un'altra curva, galleria. La luce più forte di un lampione, i fari delle auto di guidatori ancora troppo assonnati, e un lago, accarezzato da mille farfalline impazzite. In lontananza le colline, avvolte in una leggera foschia, si tuffavano anche loro nell'acqua gelida. E parlava solo il rumore del vento. Nessuna energia, solo quella forza silenziosa, quella stessa forza che mi ronzava nelle orecchie e mi faceva strizzare e lacrimare gli occhi. Il lago, così avvolto nel silenzio, mi pareva diverso da quel lago che conoscevo, da quel lago visto di giorno mille altre volte. A quest'ora quello stesso lago si faceva accarezzare da piccole tavole alate e giocava con loro, mostrando di sé tutta la sua forza in uno sfondo bluastro e brillante, agitato dal vento. Stiamo parlando del lago di Lecco e in particolare di una località che è Val Madrera, che è situata vicino a Lecco, e lo spot di cui stiamo parlando è il windsurf. Decisi di entrare a far parte di quel branco di surfisti che all'improvviso, appena sorgeva la luce del sole, si lanciava senza esitazione nell'acqua invernale all'arrivo del vento. Spesso dopo aver trascorso ore a guardare il vuoto aspettando un segnale, un primo muoversi di foglie. L'idea mi aveva stregato. I primi tentativi con il windsurf furono una delusione. Tantissime informazioni tecniche e un'attrezzatura ingombrante e difficile da trasportare. Un'attesa al freddo, spesso vana, per un vento che il più delle volte non si faceva neppure vedere. Sveglia la mattina presto e sacrifici su sacrifici, tutte cose che io non riuscivo proprio a capire. E così fissavo incredulo quel branco, al quale però già sentivo di appartenere, senza capire il perché di tanta testardaggine. Non mi entrava proprio in testa cosa spingesse tutti a quella sofferenza e tantomeno riuscivo a capire perché mi trovassi là a tentare movimenti che sentivo troppo goffi. Il lago sembrava regalare emozioni forti a tutti, riservando solo a me i capricci. Come una donna che non vuole farsi conquistare. Semplicemente mi ignorava e così facendo cercava di farmi mollare. Un giorno scoprì però come queste sue piccole crudeltà vadano invece amate. Spinto ormai quasi soltanto dalla promessa degli impegni presi con me stesso, andai avanti per la mia strada, cercando di affascinare quella creatura che sembrava sedurre tutti. Alla fine la mia persistenza venne premiata e riuscii a farmi dire un piccolo grande sì. Avevo ormai tecnica e vento e quel giorno l'acqua premiò tutti i miei sforzi. Capii che lasciarsi veramente andare non era più arrendersi al lago, era interpretarne la forza. E fu così che finalmente planai. Il mio movimento da goffo divenne veloce ed armonico e il vento mi sollevò. Sotto la mia tavola rimase solo la sua piccola pinna ad incidere appena l'acqua. Una piccola traccia e un immaginario solco poco profondo a separare la mia incredulità da un incredibile volo. Durante una planata hai una specie di rivelazione. Infatti il motivo del racconto è che quel giorno in cui sono riuscito a compiere la mia prima planata, e cioè sono riuscito per la prima volta a far scivolare la mia tavola da windsurf su un'onda e oltrepassandola e facendola volare, ho capito che non potevo dedicare la mia vita solo all'imballaggio farmaceutico. E così da quel giorno ho deciso di guadagnarmi da vivere, ok, con un lavoro tradizionale, ma che avrei voluto continuare a provare le stesse sensazioni. Subito dopo la scoperta delle tecniche di accelerazione sull'acqua, la planata ha portato a una nuova emozione. La paura di non sapere gestire, guidare, cavalcare una nuova forza così grande. Se non riuscissi a fermarmi in tempo, pensavo. E poi sono arrivate naturalmente le onde, sempre più grandi, con quelle migrazioni e il febbrile inseguimento alla loro ricerca. Le onde come un qualcosa di ancora più forte e di più grande, dove passarci in mezzo, addirittura con il corpo, cullandocisi. È per queste sensazioni intense che nascono progetti, limiti superati o da affrontare. Dentro di noi una sensazione di immensa tranquillità e soddisfazione. Quel senso di appagamento che l'animo umano raggiunge quando per un po' riesce a librarsi in volo. La planata è un comportamento idrodinamico di un corpo immerso in acqua che, acquistata velocità sufficiente, non naviga più, bensì scivola, quasi rimbalzando sulla superficie dell'acqua. Ecco, questa è la definizione più semplice che ho trovato al termine planata, che poi prosegue così: tutto dipende dalla portanza, ovvero dalla forza perpendicolare al corpo orientata verso l'alto. Maggiore è la velocità di quel corpo e più intensa sarà la portanza. Superata una soglia definita critica, quel corpo inizierà a planare. Ora, ci sono definizioni molto più tecniche e molto più precise di che cosa significhi planare sull'acqua o nell'aria o su un fluido in generale. E il mio amico Davide, che è ingegnere aerospaziale, se sta ascoltando questa puntata avrà la pelle d'oca per la mia approssimazione. Però non saprei in che altro modo cercare di spiegare a chi non ha mai messo piede su una tavola da surf o su una barca planante che cosa sia quella forza che a un certo punto solleva la barca dall'acqua e le fa prendere una velocità che sembra incontrollabile. Ecco, quella cosa lì, o sarebbe più giusto dire la sensazione che genera quella cosa lì, è talmente forte, è talmente inaspettata, è talmente rara, che genera in chi la prova una sorta di dipendenza. Credo che questa sia una spiegazione abbastanza semplificata del motivo per cui tutti gli sport che in aria o in acqua hanno a che fare con la planata generano un tasso di adrenalina tale che crea delle vere e proprie tribù, degli adepti che si riconoscono tra di loro, si riuniscono in gruppi che migrano e si spostano di luogo in luogo per prendere il vento giusto al momento giusto. Se qualcuno di voi frequenta ad esempio la parte nord del lago di Garda o le spiagge della Gallura, sa di cosa sto parlando. Gruppi di persone che spesso vivono in un furgone accanto alle loro tavole e ci oziano fino a che non si alza il vento giusto. Avete presente Point Break, Patrick Schweiz, i filosofi del surf? Ecco, vabbè, lì era tutto un po' ingigantito, ma le volte in cui mi è capitato di vederli da vicino sembravano davvero una tribù, con i loro riti ovviamente. E tra questi, quello iniziatico della prima planata è probabilmente il rito più importante. Io non faccio parte di nessuna tribù, però ricordo bene la prima volta in cui ho provato quella sensazione lì. E non ero su una tavola da surf, ero su una barca a vela piccola e veloce. Il vento era molto forte e all'improvviso, in maniera del tutto casuale e fortuita ovviamente, ho fatto quello che però serviva fare per farle prendere velocità e lo scafo è iniziato a planare. Quella è una sensazione che auguro di provare a chiunque e non serve essere un esperto per riconoscerla, la planata. Tutto intorno a te rimane fermo e tu acceleri. Che lo so che è una banalità, ma è così. La barca vibra sotto il sedere e sembra volerti scappare via. Non sono mai salito su un cavallo, ma credo che faccia la stessa cosa quando si imbizzarrisce. E devi tenerla stretta la barca quando plana. È come se la forza del vento diventasse la tua, da un momento all'altro. Più forte di prima, più dirompente e più pericolosa. Se avete un amico che va in barca a vela ed è capace, chiedetegli di farvi planare. E se non ce l'avete, non fa nulla. Salite su un aliscafo. Quando si solleva dall'acqua, in quel momento, ha iniziato a planare. Ciao, sono Milvio, appartengo alla tribù degli Ozuka. Siamo una tribù di combattenti romana numero uno in ogni tipo di arte marziale. Io sono campione di Sanda. Non so cosa sia, Milvio, però suona veramente forte questa cosa. Faccio parte della tribù degli allenatori. Finito il lavoro, 2-3 volte a settimana su un campetto ad allenare 15 ragazzini scatenati. Ciao Stefano. Non è proprio una tribù, ma va bene uguale. Questa invece è una tribù. Abbiamo fondato il gruppo MERDAP, che letto senza i puntini si pronuncia Merdap, Movimento Estimatori Recuperanti dell'Antiquariato Piaggio. Facciamo lunghi viaggi coi ciao e ci divertiamo come dei matti. Ecco, questo più o meno è la tribù che avevo in mente quando pensavo a una tribù, anche se tutto parte dal fatto che Guido mi diceva prima fuori onda qualcosa tipo 30 anni fa ha preso in mano un windsurf. Pronto Guido? Eccomi qua. Ciao, come stai? Bene. Senti, dicevo bene 30 anni fa, anni 80. Hai detto bene, perché quelli sono gli anni in cui è nato il windsurf. Ma in Italia intendi dire o in assoluto? Certo. Ma che erano i Mistral, quelli grossi con le tavolone larghe o no, mi sbaglio? Sì, quelli che sembravano più più dei pattini che dei windsurf. Dei pattini, cioè, certo, perché avevano una specie di scafo più che una tavola. Esatto. E da allora non hai più smesso? Da allora non sono più riuscito a smettere, sono riuscito a non divorziare, a trovare una compagna anche lei appassionata di windsurf, per cui sono ancora qui. Perché è complicato quando si ha una passione come questa, che ti crea un senso di appartenenza e anche di dipendenza, no? da quella forma di adrenalina che ti genera, in questo caso, l'andare veloce sull'acqua, la planata, eccetera, eccetera. È difficile o è una banalità? O meglio, è una banalità ma è vera il fatto di avere difficoltà ad avere rapporti con persone che non appartengono a queste tribù? Quando sei planato o hai fatto la tua prima planata, il problema è che non riesci più a smettere. È proprio come hai detto tu, è una specie di droga che poi trasmetti anche a tutti quelli che stanno di fianco a te, per cui ti trovi in posti sperduti, disagiati, ti trovi a dormire nel furgone, come dicevi tu, che anche a me è successo 2000 volte, ad aspettare un vento che magari non arriverà nemmeno. Quindi in questo o hai una moglie o un marito che ti seguono, oppure è un po' complicato portarteli dietro? Diciamo che il windsurf e tanti sport di questo tipo sono stati causa di divorzi. Senti, a noi però incuriosiva moltissimo anche il tuo lavoro, perché tu fai l'imballatore farmaceutico. Dimmi meglio tu, per piacere. No, è bello, il termine che hai detto tu è bello, non è proprio così. Più semplicemente ti posso dire che metto il tappo alle medicine, che è una cosa che sembra un po'... Cioè, non manualmente, insomma, progetti i tappini, per tappi alle medicine intendi i tappi ai tubetti delle medicine? E sono, non per i tubetti, sono quei tappini di gomma che normalmente chiudono i flaconcini degli antibiotici, quei tappini rossi o grigi che hanno sopra una guarnizione di alluminio. Quella di cui ti liberi e dopo la quale la confezione è aperta, in sostanza. La confezione è aperta, il medico ti inietta il vaccino e tu soffri un po'. Ok. Senti, com'è che si diventa uno che progetta gli imballaggi farmaceutici? È una bella domanda. Ci nasci, perché è un lavoro che faccio nella mia ci famiglia. Nasci se... Ah, ok, allora famiglia. No, perché sembra quasi una condanna. Niente, cosa sei nato? Niente, sono nato imballatore farmaceutico, ragazzi. Io sono nato windsurfista. Ah, ok, perché questa è l'altra domanda. Sei più imballatore o più windsurfista? Molto più windsurfista che imballatore. Senti, invece parlavi di migrazioni, no? Di spostamenti che seguono... Tu dove, qual è il posto più lontano dove sei andato per fare windsurf? Sono le Hawaii, che è la mecca del windsurfista. Più di lì non puoi andare. Ah, perché lì ci sono i venti giù. Ma scusami, ma il windsurf con le onde che cosa ci azzecca? È come il calcio con i maccheroni, perché è la sua morte, nel senso che quando poi riesci a unire planata, vento e onda, a quel punto lì ti senti veramente realizzato. E questo è quello che cerco di fare. Guido, senti, ti lascio tornare al windsurf o agli imballaggi, ma esci anche in questi giorni invernali? Hai in previsione uscite tipo in questo fine settimana? Certo, una specie di sacchetto della spazzatura dove mi metto dentro per non sentire il freddo, mi vesto sotto e vado a planare. Guido, grazie mille, in bocca al lupo e prosegui così. Grazie mille. Ciao Guido, buona giornata. Ciao, grazie. A giudicare dalla vegetazione intorno a Guido nella foto che ci ha mandato, è in qualche posto vicino a un lago o al mare, ma sembra scontato perché lui ha il viso abbronzato, ha una magliettina estiva da windsurfista, perché ha su un disegnino, e degli occhiali da sole. Tribù. Sostantivo femminile. Forma associativa caratteristica di alcune culture, costituita da un gruppo etnico di ordine semplice, i cui membri parlano lo stesso linguaggio e occupano permanentemente o periodicamente una regione. Ciascuno dei 12 gruppi in cui era diviso l'antico popolo di Israele, discendenti dai 12 figli di Giacobbe. Nella Roma antica, ciascuna delle frazioni in cui era diviso il territorio dello Stato. In matematica, famiglia di sottoinsiemi. Etimo, dal latino tribus. Data, secolo XIV. Non è solo una canzone, questo, ascoltatelo bene, cercate di ricordarvi, questo era uno spot, si parla di sicuramente anni 80, c'era una lavanderia Levis 501. E c'era un tizio che c'entrava, quel tizio poi, e si spogliava e si metteva gli abiti nella lavatrice. Quel tizio era diventato un cantante poi, no? Ci è venuto in mente l'altro giorno Nick Cayman, credo fosse lui. Oggi oggi regaliamo gli ultimi due biglietti disponibili per partecipare venerdì e sabato, questi, alla Notte dei Publivori, alle ore 21.30 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Se siete da queste parti e avete voglia di vincere quei due biglietti e di partecipare alla serata, inviate un SMS subito, adesso, al 349-238-6666, in cui ci sia una piccola storia legata a quel paio di jeans lì, quei Levi's che Nick Cayman si toglieva e infilava nella lavatrice. Qualsiasi storia sia che abbia a che fare con i vostri jeans, che fossero Levi's oppure no, chi se ne frega. 349-238-6666, al volo, alla fine sceglieremo l'SMS vincitore. Torniamo al tema di oggi, che è far parte di una tribù, essere un gruppo che si riconosce e si identifica rispetto al resto. Quando ne abbiamo parlato, Tiziano mi ha segnalato un libro che si intitola Sottocultura, il fascino di uno stile innaturale, che è scritto da un sociologo che si chiama Dick Ebdige, che di fatto fa questo nella vita. Ha fatto parte di una sottocultura, ora è un sociologo. Quella sottocultura erano i mod, e lui definisce i mod in questo modo qui. Intorno ai primi anni 60, una consistente comunità di immigrati si era stabilita nelle zone working class dell'Inghilterra. Ed era diventato possibile un certo tipo di rapporto fra gruppi neri e gruppi bianchi che abitavano gli stessi quartieri. I mod costituirono la prima della lunga serie di culture dei giovani della working class che si sviluppò intorno agli indo-occidentali, che rispose positivamente alla loro presenza e che cercò di emularne lo stile. Come l'hipster americano, il mod era un tipico dandy della classe inferiore, maniaco dei piccoli dettagli degli abiti. Caratterizzato, come i meticolosi avvocati newyorkesi di Tom Wolfe, dalla forma del colletto della camicia, di una precisione esatta come gli spacchi delle sue giacche fatte su misura, o dalla forma delle sue scarpe fatte a mano. A differenza del teddy boy, i mod erano più sottili, indossavano vestiti apparentemente conservatori in colori rispettabili, erano meticolosamente lindi e in ordine. I capelli erano generalmente corti, puliti, e i mod preferivano conservare il profilo elegante di un impeccabile taglio alla francese, con una lacca invisibile piuttosto che con la banale brillantina preferita dai rocker più apertamente maschili. I mod minavano il significato convenzionale di colletto, vestito e cravatta, spingendo l'accuratezza nel vestire fino all'assurdo. Facevano di se stessi dei capolavori. Bloccati in maniera più fissa rispetto ai teddy boy e ai rocker in una grande varietà di impieghi che imponevano loro obblighi molto rigidi, tanto su come dovevano presentarsi quanto sul loro tempo, i mod davano un'importanza altrettanto grande al fine settimana. Vivevano negli spazi lasciati vuoti dal calendario dei giorni lavorativi, nelle sacche del tempo libero, la sola cosa che dava un senso al loro lavoro. E durante questi periodi di tempo libero c'era da fare un vero lavoro: lucidare i motoscooter, comprare i dischi, far stirare, restringere o andare a riprendere i pantaloni alle lavanderie, lavare e asciugare i capelli, per i quali non sarebbe andato bene un vecchio e semplice asciugacapelli. Secondo un mod intervistato dal Sunday Times nell'agosto del 1964, avrebbe dovuto essere uno con il cappuccio. Io non sono un esperto di sottoculture, quindi a quelli che mi chiedono chi erano i mod saprei solo dire: erano quelli che andavano in giro in Vespa con i jeans stretti, i caschi con dei cerchi blu, rossi e bianchi, giusto? Eleganti, con delle giacche, delle camicie. Guardatevi Quadrofinia, suggerisce Tiziano Bonini, e capite chi sono. Vince i due biglietti per la serata dei Publivori venerdì e sabato al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Lorenzo, che dice: sono anni che vorrei entrare ancora in un paio di Levi's, ma il lavoro sedentario e la dieta a base di pizza con i peperoni ancora me lo impedisce. Grazie a lui, grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Paolino Corleoni. Grazie soprattutto a Guido. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Marco, vengo da Asti, la storia di domani è la mia e parla di un gruppo di amici e di uno scherzo memorabile. Questa è la mia storia e io sono qui.